Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Eccoci, bentrovati a Nessuna è perfetta, il programma che parla di lavoro, di donne, di problemi legati al lavoro, di soluzioni anche. Una soluzione, per esempio, quando le cose vanno meno bene nel mondo così, dell'ufficio, nel contesto di lavoro che ci riguarda ciascuno di noi, una delle soluzioni è cambiare ambiente di lavoro, cambiare colleghi, cambiare del tutto vita professionale. Di questo parliamo oggi e di questo parliamo anche guardandolo da un punto di vista totalmente diverso, perché il cambiamento è azione, energia, richiede una grande quantità di forza interiore, perché cambiare significa anche andare incontro a paure, lo vedremo, ce lo racconteranno gli ospiti di questa puntata. L'opposto potrebbe essere invece apprezzare i tempi lunghi, non l'azione, ma la riflessione. Cos'è l'opposto del cambiamento? Forse è la noia. E allora, se in questa puntata parliamo di azione, di energia e di cambiamento, vale prima anche dare una valutazione a quello che è il suo posto, cioè la riflessione, la noia. E lo facciamo, pensate, con un politico che ha scritto un saggio dall'affascinante titolo Noia politica e noia della politica. Allora, il pendolo oscilla tra cambiamento, energia, forza e quello che appare invece l'opposto, vale a dire la riflessione e anche, perché no, la rivalutazione della noia. E come vi anticipavo, il nostro agente provocatore ha proprio scritto un saggio il cui titolo Noia politica e noia della politica è parecchio curioso. Benvenuto Marco Follini, giornalista politico di grande esperienza, è stato vice premier ai tempi del governo Berlusconi, è stato segretario dell'UDC, fondatore del PD. Perché questo titolo e perché questo saggio? Beh, perché mi divertiva parlare della noia, che è parte della vita e dunque anche parte della politica, che è sicuramente un peccato, ma un peccato veniale, ed è pur sempre qualcosa con cui dobbiamo convivere tutti noi e anche chi si dedica alla politica. Alla noia si reagisce con il dinamismo, con l'essere indaffarati a tutti i costi. Un politico può permettersi la noia, e come li vede, diciamo, quelli che sono oggi sulla scena politica, i Grillo, i Salvini, i Matteo Renzi, i Pisapia? Coglie in loro delle tracce di noia, o sono talmente presi dal loro day by day da non poterselo concedere? Ma io sono partito da un'osservazione un po' paradossale e molto personale, sia chiaro. Io trovo che quelli più frenetici, apparentemente più dinamici, che hanno sempre la battuta pronta, che hanno sempre la trovata d'effetto, scavando un po' si rivelano noiosi. E quelli che invece appaiono più prudenti, più felpati, più dedicati anche all'ascolto e all'esercizio della pazienza, anche qui, se si ha la capacità di togliere, diciamo, un po' di polvere dagli scaffali, si rivelano al dunque persone più interessanti e perfino direi più vivaci. Allora, il primo identikit corrisponde per esempio ai due Matteo, no? Sono frenetici, sono sempre in TV, sono sempre in azione, Salvini e Renzi. Il secondo potrebbe appartenere alla figura di un politico, per restare all'attualità, molto riflessivo, come è l'attuale Presidente del Consiglio, Gentiloni. Beh, certamente nella vulgata Gentiloni può sembrare, tra virgolette, più noioso di Renzi e anche di Salvini, però secondo me il discrimine è un po' diverso. Quelli che raccontano se stessi e mettono la propria persona e la propria storia al centro di tutto, alla fine si rivelano molto monotoni. E quelli che invece si sforzano di interpretare il paese e quindi di guardare con qualche attenzione, qualche riguardo in più agli altri, si rivelano più interessanti. Tutto il mio ragionamento, tutta la distinzione che faccio tra i politici pop che vanno di moda e quelli apparentemente più attempati, parte da questa osservazione. Naturalmente lei ha citato i miei trascorsi, io sono diciamo un uomo della preistoria, sono un nipotino della Prima Repubblica e quindi non sono così un giovane di... però un giovane uomo della Prima Repubblica. Però siccome i tempi che attraversiamo non mi pare che meritino gli applausi di nessuno, e tant'è che il pubblico sta rumoreggiando da un po' di anni a questa parte, forse una riflessione un po' meno banale ci aiuta, almeno è quello che provo a fare. Ma perché noia politica e noia della politica? C'è noia della politica secondo lei oppure c'è noia dei politici? A guardare le ultime elezioni britanniche, per esempio, vedo che i giovani delle università hanno fatto file lunghissime per votare Corbyn. Poi invece andiamo a vedere le elezioni in Francia e c'è stata un'astensione clamorosa. Sono dati contraddittori. C'è noia dei politici o noia della politica? Ma insisto, la noia fa parte della vita e quindi sarebbe paradossale che non ci fosse un po' di noia anche dentro la vita politica. Oggi c'è soprattutto insofferenza, che è un'altra cosa, c'è un malumore diffuso che non ha tanto a che vedere col fatto che ci si annoia, ha molto a che vedere col fatto che siamo tutti noi, per ragioni diverse, un po' scontenti della classe dirigente che pure continuiamo a votare. Questo libricino è un'occasione per cercare di capovolgere un punto di vista che va per la maggiore. Lei è stato giovanissimo, molto vicino ad Aldo Moro, che era appunto un grande politico, ma tempi lunghi, pause, discorsi che oggi molti italiani faticherebbero a capire anche per una questione di... insomma, non dico di analfabetismo di ritorno, ma di maggiore difficoltà a accedere al lessico complicato che pure usava Moro. È possibile immaginare un politico che oggi non usi frasi corte e pensieri, come dire, elementari? Ma guardi, Moro era un uomo inevitabilmente complicato e, secondo i parametri di oggi, direi anche un po' noioso. Ma è l'uomo che in questo paese ha fatto le cose più importanti. Il centrosinistra è figlio della sua strategia. La convivenza con i comunisti l'ha pensata nei tempi della Guerra Fredda ed è stato il notabile democristiano che più è riuscito a capire i figli del 68, ragazzi che erano assolutamente ai suoi antipodi. Capisco che tutto questo oggi non vada di moda, però forse fa parte di una tradizione che dobbiamo recuperare, non per fare il nostalgico, che è sempre una parte stucchevole che non mi appartiene, ma per segnalare che o la politica ha respiro, si gioca su tempi lunghi, oppure nell'affanno che la caratterizza non è in grado di produrre risultati. Quindi meglio qualche frase un po' più complicata che questi pensieri superficiali che vagano nella blogosfera e che si cambiano poi ogni due minuti. Senta, in chiusura, Follini, siccome in questa puntata noi parleremo di cambiamento e anche di cambiamento di vita, cambiamento professionale, lei la sua vita l'ha cambiata professionalmente dopo aver passato due terzi della stessa in politica, diciamo, poi ha fatto qualcosa di diverso. Il cambiamento è rigenerante o spaventoso? Il cambiamento è rigenerante, ma richiede un'intima forma di coerenza. Io sono entrato e uscito dalla politica più di una volta, resta per me una grande passione, ma credo che un politico non debba vivere solo di questo e debba cercare di dare a se stesso un orizzonte più largo, se ci riesce. Se poi io ci sia riuscito o no, beh, non vorrei annoiare i suoi ascoltatori. No, piuttosto leggiamo Noia politica e Noia della politica, pubblicato da Sellerio. Grazie Marco Follini e buona domenica. Grazie, buona domenica. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno e parliamo di cambiamento con una che quest'anno ha cambiato un po' tanto lavoro. La nostra Sunday Girl di questa domenica. Benvenuta Bianca Berlinguer, giornalista, direttrice del TG3 dall'ottobre 2009 all'8 agosto 2016 e poi cambio di vita professionale, l'abbiamo vista ogni martedì sera su Rai 3 con il programma serale e poi tutti i giorni con la sua fascia pomeridiana. Allora, eccoci Bianca Berlinguer. Cambiare è una rivitalizzazione della vita. Tu come ti sei trovata a cambiare dopo anni in cui, insomma, fare il direttore è un mestiere, fare un talk show di prima serata e avere un programma tutti i pomeriggi è un'altra cosa. Beh, diciamo che all'inizio ero molto preoccupata perché, sai, dopo tanti anni di telegiornale, quindi l'idea del cambiamento mi faceva molta paura. Non sembri una che si spaventa, invece sì, anche tu hai avuto delle notti insonni. Molte notti insonni. Sì, l'idea di uscire al telegiornale mi terrorizzava perché venivo da, insomma, era casa mia quella al TG3, certo, dopo tantissimi anni, non solo da direttore, ma insomma, da giornalista per tanti anni. Quindi questa esperienza, poi all'inizio le 18:30 del pomeriggio mi sembrava una sfida molto complicata perché pensavo che quell'orario, fare informazione in quell'orario sarebbe stato molto difficile, perché era una fascia che nessuno aveva sperimentato prima, certo, da 18:30 alle 19, prima del TG3. Invece è andata molto bene. Da studiare, invece inaspettatamente, perché appunto è andata bene. È stata che te l'avevano data come sfida sperando che andasse male? No, questo non so, spero di no, però quando ne parlavo appunto col direttore generale, che era Antonio Campo Allorto, io ero molto, molto negativa, molto scettica, dicevo andrà male, sarà una sfida che non riuscirò a vincere. Lui invece era molto più positivo di me, e invece è andata bene della prima puntata e sono stata davvero molto felice, anche perché io aspiravo molto al quotidiano, venendo dal telegiornale, quindi la mia, certo, se no ti sarebbe mancata l'adrenalina della notizia. Sì, certo. Io ero molto, molto così, desideravo molto continuare a fare il quotidiano, cioè stare sulla notizia, anche se è un tipo di notizia, come tu sai, diversa, perché certo, una cosa è il telegiornale, cioè seguire il flusso, appunto l'andamento di quello che succede tutti i giorni, una cosa è l'approfondimento, per quanto sia un quotidiano devi poi scegliere di puntare su una notizia. Però secondo me, io poi ancora oggi, anche se poi Daria mi ha chiamato e mi ha detto voglio che sia tu a fare la prima serata, però quello che mi piace moltissimo ancora oggi è soprattutto cercare di fare l'approfondimento quotidiano della notizia del giorno, no? Penso che poi il futuro dell'informazione sia soprattutto quello. Certo, che sia la notizia. Se tu dovessi dare un consiglio a una nostra ascoltatrice che si trova nella necessità o nella scelta di cambiare, magari non a 30 anni o a 40 anni, ma di cambiare a 50 e anche di più. Qual è il consiglio? Cos'è la cosa che ti ha aiutato di più nel passaggio tra la casa, come l'hai definita tu, no? Cioè un ambiente conosciuto, noto, il TG è stato la tua casa professionale per tanti anni, e un cambiamento. Qual è la cosa che ti ha aiutato di più, il consiglio che potresti dare a chi ci ascolta? Beh, intanto diciamo sempre che noi siamo delle privilegiate, certo. Quindi partiamo sempre da una condizione naturalmente di privilegio. Beh, non demoralizzarsi, ecco, e l'essere combattivi. Io sono sicuramente una combattiva che non... che ce la mette sempre tutta e che non si abbatte e che cerca comunque di rimotivarsi in ogni situazione, sempre, ecco, però tengo conto che non è facile per chi naturalmente non vive una situazione di donne privilegiate come quella che viviamo noi, e questo bisogna sempre partire da questo dato di fatto, ma il cercare di insomma tirare fuori le nostre forze, ecco, dentro di noi, motivandoci sempre a qualunque età, ecco, questo le donne credo che siano molto capaci di farlo, forse più degli uomini. Si autorigenerano, sono più capaci di combattere quella sottile depressione che può anche venire. Prima con l'ospite che ti ha preceduto parlavamo di noia, Marco Follini, che ha scritto questo saggio proprio dedicato alla noia della politica e alla noia in generale. Il cambiamento è un antidoto per combattere la noia, o la noia è un sentimento che ti appartiene e che ogni tanto tu giudichi anche, come dire, salutare? Ma io ho sempre lavorato molto nella mia vita, forse perché sono così molto preoccupata, terrorizzata, cerco sempre di evitare di fermarmi, ecco, magari è anche un errore questo, di muoversi il più possibile, stare sempre in movimento per non staccare, per non fermarsi. Per evitare di annoiarsi, ecco, non voglio usare il termine noia, ma per insomma ho sempre cercato di avere una vita molto molto movimentata, nel senso di molto presa dal lavoro, ecco, e quindi forse non tanto per evitare la noia, ma per evitare forse di fermarsi tanto a riflettere. Cioè, è possibile. Mettiamola così, più che altro. Sì. Questo fin da quando ero giovane, da quando ho cominciato, insomma, come dire, a fare questo lavoro. E quindi non la voglio chiamare noia, ma preferisco... timore del vuoto, che però... devo dire di sì. Ogni tanto sommato. Pure nella vita bisogna confrontarsi anche con questo. Senti, di tanto in tanto il tuo nome compare come possibile, come dire, possibilità politica per la sinistra. Sarebbe un cambiamento di quelli veramente, diciamo, un turning point, sarebbe un vero cambiamento, altro che passare dal TG alla conduzione di un talk show. Adesso guarda, io amo moltissimo il mio lavoro, quindi continuo a fare la giornalista con grandissime soddisfazioni, quello che non l'ho preso in considerazione, quel tipo di cambiamento non l'ho preso in considerazione. Mentre ci avviamo veramente alla fine di questa nostra chiacchierata, nell'anno che è stato l'anno del cambiamento, questo, sì. Ci vuoi raccontare due episodi, due aneddoti, uno che ti ha dato una grande soddisfazione, a sorpresa magari, e uno che invece ti è dispiaciuto? Ma guarda, mi ha dato soddisfazione il fatto di, forse non essendo più ingabbiata dentro la struttura del telegiornale, che comunque è una struttura più rigida naturalmente, che ti costringe anche ad un certo ruolo, l'essermi anche presentata in video in maniera probabilmente più morbida, anche più flessibile, e quindi magari non più con quella... con quell'aria severa, no? Ecco, quell'aria che severa c'avevi che molti un po' mi rimproveravano. parlavano, no? Dicevano la Berlinguer non sorride mai, la Berlinguer è troppo rigida, la Berlinguer è troppo severa, mentre prima sempre quella severità che invece magari con questa carta bianca è diminuita, perché essendo naturalmente più colloquiale lascia più spazio all'improvvisazione, e allora l'improvvisazione mi ha tolto quell'aria appunto più severa e più rigida che invece non mi appartiene, ho potuto metterci più me stessa, infatti l'ho anche detto, mi concederò, come dire, un di essere un nuovo po', un che po' più bianca, dentro il telegiornale, ecco. Mi concedevo meno, mi veniva meno spontaneità, invece con questa trasmissione sono diventata più me stessa, più spontanea. Naturalmente vai incontro più che nel telegiornale, ti devi scontrare di più con quelle che sono, ti devi confrontare di più con quelli che sono gli ascolti, ti devi confrontare di più con quelle che sono delle critiche esterne, e questo. Qual è la critica che ti è dispiaciuta? Insomma, è più faticoso, molto anche lavoro più di soddisfazione, ma anche naturalmente più di, insomma. Sì. C'è una critica bianca che ti è dispiaciuta più di altre, che hai trovato più ingenerosa, ingiusta? Beh, ce ne sono state naturalmente di critiche anche più ingenerose. Beh, ingiuste, sai, ci sono state anche delle critiche, per esempio anche rispetto al settimanale, che forse non hanno tenuto conto del fatto che siamo partiti il 15 febbraio, quindi siamo partiti con grande ritardo, siamo partiti quando magari ci sono stati fatti certi paragoni anche con la trasmissione che faceva Giovanni Flori sulla 7, quando noi abbiamo bisogno di tempo ancora magari per prepararci, quindi ecco questo confronto continuo che è stato fatto forse, che l'hai trovato ingiusto, questo continuo paragone che viene fatto, che dico vabbè, ma è possibile che tutto deve essere sempre ridotto a un confronto solo basato sugli ascolti, no? Magari abbiamo bisogno di un altro po' di tempo, ecco questo dico. Allora, buona vacanza, perché penso che anche ancora due puntate, ancora due puntate, e poi avrete tutti quanti della tua squadra la giusta pausa estiva come tutti noi. Grazie, e grazie, buona grazie domenica Bianca, grazie. Grazie, grazie. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, terza parte. In questa puntata parliamo di cambiamenti nel mondo del lavoro, e lo facciamo con due esperti che vi presento subito. Benvenuta Giovanna Della Posta, appena uscita da Sara Assicurazioni, dove ricopriva il ruolo di direttore pianificazione e controllo e molte altre cose, ed è in attesa di cominciare la prossima avventura. E buona domenica e ben trovato Giovanni Lo Storto, direttore generale della LUIS Guido Carli di Roma, autore di un pamphlet recentissimo, Ero studente, il desiderio di prendere il largo, pubblicato da Rubattino. Allora, io comincerei subito da Giovanni Lo Storto. È un desiderio o una necessità quella di prendere il largo? È una cosa che riguarda soltanto le nuove generazioni o si alimenta a tutte le età? Ma il desiderio di prendere il largo è una caratteristica propria delle generazioni che stanno arrivando, che però ci contaminano, e quindi noi pure possiamo attrezzarci per prendere il largo. Quello che si intende in questa suggestione di ero studente è che noi eravamo studenti in un modo che ricordiamo, con una penna, un quaderno, un libro. Questi studenti che arrivano adesso sono studenti anche con questi strumenti, ma con qualche strumento in più molto potente, come per esempio una informazione continua a loro disposizione. Tutto questo fatto, mixato, messo assieme, può dare delle opportunità nuove e migliori, soprattutto se aggiunto poi di esperienza concreta, pratica, di vita vissuta. Giovanna Della Posta, quando era ancora direttore della pianificazione e controllo nell'azienda che ha lasciato da poco, lei a un certo punto ha detto: voglio ricominciare a studiare e se n'è andata alla Harvard Business School. 130 partecipanti e una sola italiana, lei. Perché ha fatto questa scelta che corrisponde alla necessità di formazione continua, ma non è stato semplice perché lei tra l'altro ha famiglia, due bimbi piccoli. Perché l'ha fatto e che cosa ne ha ricavato? Sì Maria, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per questo invito, perché la condivisione proprio di questa esperienza è un modo anche per dire che è possibile. È possibile, ecco, anche quando si parte da una situazione che sembra di grande stabilità, però e soprattutto a volte reinventarsi può essere un'opportunità, a volte può essere una necessità. Nel mio caso io avevo bisogno di un progetto nuovo dove portare tutte queste esperienze, no, che avevo, e quindi questo mi ha consentito di scoprire, grazie anche alla missione alla Harvard Business School, di scoprire questo meraviglioso tesoro che in parte era dentro di me e in parte era anche fuori, nel mondo che mi circondava. Quindi reinventarsi è una cosa bellissima, molto bello e molto stimolante, può essere sicuramente un po' complesso perché l'iter di ammissione all'Harvard Business School è molto complessa, come hai detto, unica italiana. Nel General Management Program, che è questo executive che ho fatto, ci saranno 2500 graduate nel mondo e ce ne sono circa 10 italiani che ci sono, hanno terminato questo percorso. Quindi sicuramente è complesso, hai bisogno di tante risorse, anche la famiglia è una risorsa importantissima, e oltre a quelle economiche anche Quanto è durato questo corso? È durato 4 mesi e hai un obbligo, diciamo, di frequenza lì di 2 mesi, almeno 2 mesi. Quindi sono, e in quei 2 mesi come hai organizzato? Come hai organizzato la vita familiare, avendo 2 bambini? C'è stato un supporto, immagino, perché queste cose si fanno d'accordo con mariti, con mamme. Sì. Assolutamente sì, io non ho più genitori, quindi sono avvalsa delle tate. E i nonni paterni e mio marito, che è stato molto disponibile, anche se anche lui viaggia tantissimo perché ha un ruolo global in una multinazionale, e i bambini super orgogliosi che la mamma era ad Harvard. Quindi secondo me sì, certo, il dispiacere di non avere la mamma, ma io l'ho abbastanza sostituito un po' con l'orgoglio invece di sapere che la mamma era l'unica italiana poi che era lì e che tutto sommato ce l'avevo fatta, e una volta che sei lì poi te la giochi tutta, certo. No? Sai di avere la famiglia dalla tua parte. Insomma. Direttore Giovanni Lo Storto, apprendimento e formazione continua, voi alla LUIS questo lo spiegate ai vostri allievi, ma i manager l'hanno capito? Quelli che hanno oggi 40 anni, 50 anni? Beh, quello che abbiamo ascoltato ora, io faccio i complimenti, è veramente la parte più alta, più bella, più sofferta, più valoriale di quello che tutti quanti noi conosciamo come lifelong learning, cioè bisogna formarsi per tutta la vita e avere il coraggio, la forza, l'energia per farlo. In questo caso parliamo anche di un grande sacrificio personale per raggiungere un risultato così alto, così bello. In realtà quello che aggiungiamo oggi per gli studenti che arrivano, e quello che, come dire, è approfondito un po' in questa provocazione di ero studente, è quello che io ho chiamato life large learning, cioè studiare in maniera non solo continua ma anche larga, quindi aggiungere per gli studenti che arrivano adesso delle esperienze di vita, di studio, di lavoro fisico concreto. Per esempio i nostri studenti vanno nei campi confiscati alla criminalità organizzata, nei carceri a lavorare con donne carcerate, lavorano nell'orto della luce con i ragazzi autistici nel progetto Autistici Giardinieri, oppure vanno nei campi dei rifugiati. Io sono venuti con me in Kosovo a fare una giornata di briefing nel comando militare di Pristina. Tutto quanto questo serve a dare agli studenti un'opportunità di large learning, cioè di apprendimento largo, ampio. I manager hanno oggi la responsabilità di capire quanto è urgente, importante per loro, fino in fondo, praticare il lifelong learning e predisporre se stessi, ma soprattutto aprire le opportunità perché i ragazzi che arrivano invece abbiano la chance di poter fare large learning. Ecco, abbiamo capito 2 cose ascoltando questi esperti: che il cambiamento è comunque una cosa che procura che si fa con la fatica, non è una cosa senza fatica, no? Ci raccontava Giovanna della Posta che mettendo in pratica la teoria del fatto che si apprende a tutte le età e anche quando una ha una posizione di lavoro prestigiosa, si è rimessa in gioco, ha fatto tutti i test per essere ammessa al programma di Harvard, c'è riuscita e è stata però 2 mesi lontana dalla famiglia. Cose faticose che comportano impegno e costi di ogni genere. E Giovanni Lo Storto, direttore generale della LUISS, ci dice gli adulti devono continuare a imparare a qualsiasi età, ma i nostri studenti non devono imparare solo quello che c'è negli esami di giurisprudenza o di economia, ma devono imparare a vivere. Questo capisco bene, Lo Storto? Esatto, debbono avere l'opportunità di fare esperienza concreta e da questa arricchirsi. L'alternanza scuola-lavoro è... Ma che effetto fa, per esempio, per questi ragazzi che vengono alla LUISS, non tutti sono di ricche famiglie, però spesso sono benestanti, che effetto fa entrare in un carcere e che cosa hanno fatto con le carcerate di cui mi parlava lei prima? Hanno fatto un'esperienza straordinaria di umanità e di rapporto con la diversità e con la sofferenza, e questa è una delle esperienze più forti e più straordinarie che potessero fare, è raccontato nella seconda parte del libro, nel quale ci sono le storie di questi ragazzi, oramai sono più di 1 migliaio in pochissimo tempo che hanno fatto questa esperienza, anche nei campi con i rifugiati, sono storie molto intense, di ragazzi che vanno a fare un lavoro concreto, per cui si tratta di svegliarsi alle 5 del mattino e lavorare nei campi a togliere i sassi o di imparare come si fa a togliere la mosca che attacca le olive, insomma, quindi sono lavori fisici, ma all'interno di un contesto nel quale è molto alto il valore etico del perché lo si fa. Tutto quanto questo serve a dare ai ragazzi un'opportunità, secondo me, molto urgente, che è quella di far crescere la loro capacità di essere persone consapevoli che occorre un'alta specializzazione per affrontare il mondo del lavoro, che è complesso, ma anche una grande dose di conoscenza del sacrificio e di rispetto. Sì, cose che in questi decenni effettivamente si è parecchio trascurata. Ai nostri studenti si chiedeva di essere appunto molto preparati tecnicamente, ma poi empaticamente, umanamente, no. Giovanna Dalla Posta, in conclusione, se dovesse dare un consiglio a quelli che, come lei, si trovano di fronte a un cambiamento di vita professionale, a quale fonte di energia si attinge? Come ce la si può fare? Beh, ce la si può fare innanzitutto, secondo me, parlando anche dell'umanità di cui ci aveva parlato prima il dottor Lo Storto, e io lì ho avuto l'opportunità di arricchirmi imparando dagli altri. Lì dove? Ad Harvard, dice. Ad Harvard, e quindi sicuramente oggi potrei sentirmi di dare un consiglio, perché noi abbiamo queste opportunità anche in Italia, ma dobbiamo scegliere di voler imparare dagli altri e questa anche umiltà di voler continuare a imparare, è lì che si trova anche l'energia per dire ok, io posso sicuramente, ho tante cose su cui posso migliorare, ma posso dare ancora tantissimo, perché la capacità di imparare ma anche di disimparare, perché noi oggi quello che sappiamo talvolta condiziona quello che sapremo, e di rivalutare l'utilizzo del nostro intuito, è importantissimo l'uso dell'intuito, ma noi lo accantoniamo perché siamo sempre più guidati da queste competenze concrete, no? Quelle che pensiamo che alle quali sì, alle quali bisogna aderire per forza. Invece se ascoltassimo forse talvolta quello che ci dice, come dice Giovanna Dalla Posta, l'intuito forse funzionerebbe meglio. In chiusura, Giovanni Lo Storto, il saggio Ero studente, pubblicato da Rubattino, spero che sia letto molto anche dai genitori, mi dice qual è l'errore più comune che ha visto fare in tutti questi anni ai genitori? Qual è l'errore che i genitori di universitari tendono a commettere più facilmente? È contenuto nel titolo il suggerimento a non fare questo errore, perché il titolo, la seconda traiettoria, la prima era Ero studente, quindi essere diversi, la seconda invece è Eros. Eros vuol dire desiderio di apprendimento, si apprende, si cresce, si studia bene con grande successo quando si desidera davvero quello per cui come dire, si sta applicando, si sta facendo un sacrificio. Il più grande errore che fanno i genitori è combattere contro questo desiderio, suggerendo ai figli, talvolta obbligandoli, di studiare quello che loro pensano sia giusto studiare, che molte volte non è quello che i figli vogliono fare, oppure altre volte è scelto soltanto perché il mercato del lavoro dice che quella è l'indicazione più utile. Ma quando un ragazzo sceglie l'università, questo dovrebbero capire i genitori, dovremmo capire noi adulti, si sta preparando per un mondo del lavoro che affronterà dopo 5 o 6 anni, e voi pensate a come era il mondo del lavoro 6 anni fa e quanti lavori nuovi sono nati nel frattempo. È molto meglio che i ragazzi studino quello che gli piace studiare, quindi saranno attrezzati per affrontare con voglia, con energia e anche con competenza, perché se uno studia con passione filosofia, non è detto che avendo studiato filosofia poi non possa lavorare in una grande azienda. Esatto. In chiave anche economica o di business. Io ringrazio Giovanni Lo Storto, direttore generale della LUIS Guido Carli di Roma e autore di Ero studente, il desiderio di prendere il largo, pubblicato da Rubattino, e ringrazio Giovanna Della Posta, che è manager in rampa di lancio per nuove avventure, e ci ha raccontato della sua esperienza di Harvard. Buona domenica a entrambi. Grazie. Grazie Maria, grazie. Nessuna è perfetta. Eccovi ben ritrovati, siamo all'ultima parte di Nessuna è perfetta, è il momento della lettera e dei consigli del nostro coach. Vi ricordo che potete scrivere a nessunaperfetta@radio24.it o commentare su Facebook o su Twitter. La lettera che ci arriva questa settimana è firmata da Paola. Vi seguo con assiduità e trovo molto utili i vostri consigli, ma mi sembra che raramente affrontiate situazioni gravi. La mia lo è. Sono, o meglio ero, una dirigente di una media azienda che è stata acquistata da una più grande e internazionale. Inutile fare i nomi, tanto il mio caso è purtroppo condiviso da tanti colleghi. Per farla breve, i nuovi capi ci hanno testato per un anno prima di decidere chi poteva restare e chi no, chi era utile al nuovo progetto e chi non lo era. Io sono finita in questo secondo girone. Non è solo una questione di età. Ho appena 50 anni. Un mio collega più anziano di un paio d'anni è stato trattenuto, e non è solo una questione di stipendio più alto di quello che ora danno alla trentenne che mi ha sostituito. Mi hanno spiegato che io non sembravo in sintonia col nuovo progetto. In pratica, le mie competenze tecniche non sono bastate a mantenere il mio contratto. E ora, da dove ricomincio? Paola. Da dove ricomincia Paola? Noi lo chiediamo a Paolo Gallo, autore della Bussola del Successo, il nostro coach di questa settimana. Lo conoscete perché è spesso ospite della nostra trasmissione ed è anche direttore delle risorse umane del World Economic Forum di Ginevra. Da dove può ricominciare Paola se le cose stanno così? È una bella domanda. C'è un proverbio cinese che dice: la vita è cadere 7 volte e rialzarsi 8. E quindi avere delle battute d'arresto fa parte della vita, sembra una cosa un po' filosofica, ma è così. E peraltro poi l'idea di un'azienda che ne compri un'altra e poi c'è una specie di epurazione delle persone che ne facevano parte è un po' un cliché, come la segretaria che è l'amante e l'assassino maggiordomo, no? Quindi fa parte delle cose, tra virgolette, che succedono nella vita. Il problema è and then what, e quindi cosa faccio dopo, no? E in questa lettera ci sono un paio di cose interessanti. La prima, non ho capito se Paola fosse poi contenta o meno nel rimanere in questa azienda. C'è sicuramente una parte di arrabbiatura giustificata, di delusione per non farne parte, ma la domanda che si deve porre è: ma volevi far parte di questa azienda? C'erano dei valori che tu condividevi? Era un posto dove tu avresti voluto lavorare? Non per giustificare l'azienda assolutamente, ma per riflettere se l'essere rimasto poi era una cosa positiva o meno all'interno di questo posto. Se così fosse, cioè non era contenta, quindi il cambiamento è una cosa positiva. Nel senso, non, sì, mi dispiace aver perso il lavoro, però tutto sommato, dopo aver visto un anno dopo come funziona l'azienda, sono contenta di non farne parte. Se viceversa non è così, bisogna fare delle riflessioni, quindi il fare delle nel pensare come rialzarsi e come poi continuare e trovare un altro posto di lavoro. Questo possiamo fare magari un paio di riflessioni. Ecco, poniamo che questa mi pare di capire sia il caso. Lei non si aspettava di essere espulsa dal nuovo progetto, invece così è stato. E dice, non è neanche una questione di età, perché hanno tenuto un mio collega che è anche più anziano di me, non mi hanno tenuto perché non ero in linea col progetto. Spesso sono dichiarazioni fumose per non dire non ci stai bene. Ma a questo punto lei che cosa deve fare? Perché non è facile trovare un posto a 50 anni. No, quello è sicuro. Forse la prima cosa è fare tre domande. La prima è: che rapporto di fiducia questa persona è riuscita a instaurare all'interno dell'organizzazione e fuori dall'organizzazione, che possono dare dei contatti utili per cercare un lavoro? Non sto parlando di raccomandazioni, che è una pratica purtroppo non solo italiana, è ovviamente negativa, ma proprio rapporti di fiducia con clienti, con colleghi in altre aziende che possono dare idee o alternative. L'80% dei lavori non viene dato in base a mandare il curriculum in giro, ma perché c'è qualcuno che ti conosce e dice: questa è una persona brava, questo è in gamba. E quindi iniziare a investire molto tempo di qualità nel riattivare o nel continuare delle relazioni di fiducia che tu hai avuto con colleghi in altre aziende o clienti che possono dare idee e che possono dare opportunità. È molto importante. La seconda è quella di dire: in cosa sono brava? Quali sono le 3-4 cose in cui io sono molto bravo o brava a fare nel mio lavoro? E cercare di capire quelle che sono le organizzazioni, non necessariamente nello stesso settore, che possono tra virgolette adoperare queste capacità, queste skills, queste competenze che questa persona ha instaurato. Quindi, se vogliamo, un rapporto, un lavoro di relazione da una parte e un lavoro di contenuti dall'altra. Nel fare questa analisi probabilmente riuscirà a capire quali sono le organizzazioni che possono essere interessate e le persone che possono dare opportunità. Ecco, e c'è un aneddoto nella sua esperienza di direttore delle relazioni umane, ne saranno successi chissà quanto, che può aiutare la nostra ascoltatrice a trovare anche un po' di fiducia in se stessa, perché quando uno incontra un ostacolo, soprattutto in una fase, no, della vita in cui si vorrebbero delle certezze e non delle nuove sfide, magari ci si abbatte anche un po'. Ma Paola, io ti dico, io ho 53 anni, quindi capisco perfettamente la tua prospettiva, e anch'io mi sono trovato in questa situazione, quindi ti posso assicurare che non è un momento facile nella vita, quindi non voglio sembrare che sia assolutamente una sciocchezza, è un momento difficile, questo è sicuro. Racconto una storia che ho messo anche nel mio libro, che mi ha molto colpito. Una ragazza indiana si è sposata con un ragazzo indiano e si è trasferita a Washington. Io lavoravo lì in questo momento e non era mai uscita dal proprio paese e non sapeva neanche molto bene l'inglese, e quindi nel trasferirsi a Washington era un po' rassegnata a essere disoccupato o fare magari dei lavori abbastanza umili, però ha investito molto nell'imparare l'inglese e quando è arrivata a Washington ha contattato tutte le persone indiane che lavoravano alla Banca Mondiale, ha parlato con molto di loro. E poi è venuto a fare un lavoro. Ha iniziato ovviamente a livello più basso e dopo 3 anni ha avuto una prima promozione. E cosa vuol dire? Che questa persona ha capito che aveva un punto di debolezza, nel suo caso la lingua. Ha capito che poteva adoperare intelligentemente delle relazioni legate a una affiliation, a una specie di connessione in quel momento lì solo geografica. L'essere indiani. L'essere indiano e quindi la far parte di una certa tribù, tra virgolette, lo dico con rispetto ovviamente. E nell'adoperare queste relazioni personali, nell'investire rapporti di fiducia che poi nel giro di pochi mesi sono state tradotte in un'offerta di lavoro a livelli molto bassi, ma però molto in gamba, questa persona poi ha fatto carriera. Se ci pensi bene, una persona che non era mai uscita dall'India, non sapeva la lingua, lo sapeva molto male l'inglese, non aveva nessuna competenza, un anno e mezzo dopo lavorò alla Banca Mondiale con un bellissimo stipendio, un bel lavoro. Come ci è riuscita? L'è riuscita in questo modo, nel fare una piccola analisi su quello che lei non aveva, e lei è stata intelligente nel capire che il suo inglese non era adeguato, e nel dire chi mi può aiutare in maniera molto intelligente, molto propositiva, molto, diciamo, positiva. E nell'adoperare questo, è riuscito poi ad avere quei contatti, quelle informazioni, quel lavoro che poi l'hanno portata ad avere un lavoro alla Banca Mondiale, cosa che è abbastanza difficile. Ci sono 500.000 di persone che vogliono lavorare all'anno e ne vengono assunte meno di 3.000. Quindi mai farsi scoraggiare e non pensare subito: vabbè, ma questo è successo perché stava a Washington, in Italia non sarebbe successo. Magari può succedere, anzi deve succedere anche in Italia. Grazie, grazie a Paolo Gallo. Ricordo il suo interessante e utilissimo saggio La bussola del successo, le regole per essere vincenti restando liberi. Buona domenica a voi che ci avete seguito, buona domenica Paolo Gallo. Grazie, grazie mille.